Volevo far vedere una contraddizione, nel senso che da mesi, davvero da marzo, quindi praticamente all'inizio lockdown, diverse associazioni e movimenti in città come AGI e il coordinamento migranti sottolineavano come sarebbe stato possibile focolaio sia il luogo di lavoro dei migranti che il luogo dove molti di loro dormono, quindi il CAS Mattei, proprio perché inadatto alla pandemia. Chiaramente parliamo di camerate, se così si possono chiamare, perché sono più che altro delle tende con 10-14 persone che dormono senza il metro di distanza e anzi tutti molto vicini, dopo aver svolto spesso un turno massacrante, anche lì non sempre con gli adeguati dispositivi di protezione individuali e mantenendo le adeguate distanze all'interporto, nel settore della logistica e in quel comparto appunto pericoloso. Purtroppo non c'è stata azione da parte dell'amministrazione su questo tema in questi mesi fino a quando è stato troppo tardi, mi viene da dire, e quindi volevo semplicemente porre l'attenzione su come una piazza pubblica, aperta, sia stata immediatamente chiusa, portando la motivazione della tutela epidemiologica, della tutela della sanità, quando invece sappiamo che è una piazza su cui ci sono sempre state ordinanze di questo tipo ogni singola estate. A mio avviso si sono un po' confuse e forse anche strumentalizzate le esigenze di tutela della sanità, che è sicuramente un tema importante che esiste. In piazza San Francesco c'erano molte persone e spesso nell'ultimo periodo non venivano rispettate le distanze di sicurezza, questo è innegabile, ma non saremmo mai passati, soprattutto dopo mesi di quarantena, a una chiusura di una piazza. Ci doveva essere prima un adeguato lavoro di sensibilizzazione. Penso anche alle tante associazioni di medici, di studentesse e studenti di medicina che sicuramente sarebbero stati pronti ad andare in quel luogo a fare sensibilizzazione. Si poteva utilizzare quel luogo per valorizzare la sua naturale vocazione alla socialità e organizzarvi magari degli eventi di Bologna Estate, delle iniziative culturali nel rispetto del distanziamento fisico. A nostro avviso, diciamo, la scelta così è davvero incomprensibile. Voi avete sintetizzato questo tema come moltiplicare le piazze. Sì, secondo me, come ha sottolineato molto bene anche Strade Aperte, la cui petizione abbiamo sottoscritto e anche portato in sede di Question Time, sarebbe importante invece appunto moltiplicare le piazze in città. Questa è una richiesta che non ha avuto seguito, quindi a maggior ragione, anziché chiudere una piazza, ci sarebbe bisogno di più spazi pedonali, più strade condivise. Non ci sono state, nonostante le proposte siano arrivate da oltre un mese, nuove piazze, strade pedonali in città, non sono state chiusi spazi al traffico veicolare, mentre abbiamo visto anche in commissione, Strade Aperte ha portato degli esempi interessanti, in altre città questo è stato fatto. Non parliamo di città così lontane, parliamo anche solo di Milano. È molto importante in un momento in cui appunto si pian pianino ritorna a una vita con gli spazi pubblici, poter avere quello spazio pubblico dopo che per tanto tempo non se ne è potuto fruire. Questo invece non è stato fatto dall'amministrazione, per cui anche qui un'altra contraddizione: si è chiesto di moltiplicare le piazze e invece ne viene chiusa una che da sempre è luogo di socialità della città. Ti sei fatta un'idea del perché questa solerzia nella chiusura delle piazze, invece un temporeggiamento per quanto riguarda ad esempio i magazzini della logistica o i centri di accoglienza? Sicuramente perché la prima solleticava l'interesse di alcuni residenti, di alcuni partiti politici, mi dispiace dirlo, ma Lega e Fratelli d'Italia avevano proposto degli ordini del giorno in questo senso lunedì in Consiglio Comunale. Noi di Coalizione Civica insieme al Partito Democratico avevamo bocciato l'urgenza di questi ordini del giorno perché pensavamo che ci fossero altre vie percorribili. La sera stessa invece il sindaco ha annunciato annunciato che avrebbe messo questa ordinanza incassando il plauso delle destre, e non si capisce allora perché sia stato cassato il dibattito di merito, visto che a quel punto sembrava urgente anche per l'amministrazione la richiesta delle destre. Molto più difficile invece andare a toccare un comparto che impiega migliaia e migliaia di lavoratori nella nostra città, ma anche nella nostra regione, e va a toccare sicuramente degli interessi più forti e complessi. Quindi, a nostro avviso, ecco, se ci doveva essere il pugno duro da qualche parte, non che io ami questa espressione, sarebbe stato proprio sui luoghi di lavoro, non solo nella logistica, ma anche dove sono impiegati lavoratori e lavoratrici, per esempio appunto nei centri di accoglienza. Li abbiamo invitati in udienza conoscitiva in questi mesi, ancora non hanno avuto un confronto con la giunta, che è la prima seduta di udienza conoscitiva, non ha potuto partecipare. Hanno denunciato situazioni preoccupanti di essere stati mandati a lavorare con casi di positività, senza gli adeguati dispositivi di protezione individuale. Queste sono le situazioni che sono davvero preoccupanti e dovrebbero essere prioritarie.